Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. E 34 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica a tutti da Carlo Gabardini. E allora, eccoci qua, 800 24 00 24, vi aspettiamo per stare con noi fino alle 10 di domenica mattina. Carlo, Milano Monterosa. Sole, caldo e anche del venticello. Cioè, una cosa ideale qua, idilliaca. Idilliaca per andare fuori, non per stare in uno studio con l'aria condizionata troppo alta. Sì. Diciamo anche che ci sono zone d'Italia dove piove, sì. Centro-sud, quindi diciamo che noi ce la passiamo bene, loro un po' meno, ma lo hanno il mare, su. E allora, cari ascoltatori, cerchiamo un personaggio della settimana. Se volete portarvi a casa anche oggi il libro a tema, dovete indovinarlo. E allora vi diamo subito un indizio, così cominciate a pensare. È popolare questo personaggio, eh? C'è una notizia che riguarda questo personaggio negli ultimi 7 giorni e lui è popolare, quindi pensate al programma, pensate al tipo di personaggi che cerchiamo noi, perché chiaramente popolare è un indizio molto ampio, però si parte così. È popolare anche la notizia, si può dire, sì. Poi piano e piano basta, poi dobbiamo dare gli altri indizi più avanti, esatto, così potremo anche allargarci, però non ci allarghiamo per ora. 800 24 00 24, iniziamo subito con le notizie della settimana e poi parliamo di una novità per l'Italia, una novità che interessa tutti. Vediamo, vai. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Silenzio! Dopo la discussione... Concluda, senatore Torrisi, concluda. Sono intervenuti 24 senatori. Le repliche della relatrice e del rappresentante del governo. Per favore! Se mi autorizza, presidente... Senatore Calderoli, mi meraviglio di lei... Noi stiamo parlando di dare la cittadinanza a dei bambini che hanno vissuto in Italia, che hanno studiato in Italia. Noi stiamo parlando di dare la cittadinanza a dei bambini che sono italiani e che per questo hanno diritto di avere la cittadinanza. Sullo Ius Soli una battaglia che diventa anche fisica nel momento in cui vogliamo portare avanti la nostra idea, cioè che lo Ius Soli non deve essere approvato perché la legge va bene così com'è, e nel momento in cui chiediamo di intervenire in aula e la maggioranza non lascia parlare l'unica voce non in linea con tutto quello che sta portando avanti questo governo e questa maggioranza. E questa era la settimana dello Ius Soli e delle botte in Parlamento, una battaglia che diventa anche fisica, sì, cioè che sembra chissà che roba profonda, sì. Cioè è tirare degli sberloni perché si sta facendo una cosa che a loro non va bene, questo. Sì, insomma, è quasi una scusa ex post, no? Questo è un alibi, la battaglia diventa fisica perché ci è impedito di esercitare il diritto di opposizione, una storia eterna questa qua di tutte le battaglie parlamentari in cui la Lega spesso si è distinta per questi interventi così un po' maneschi, un po' maneschi. Sì, non si in realtà, fa, però, no, fa, ma in realtà al di là della questione manesca è la questione, come sempre, di strumentalizzare questo tipo di legge, nel senso che alzare o cercare di far venire la paura dicendo stiamo facendo diventare italiani dei terroristi, è tutto sbagliato questo. Stiamo parlando di bambini che sono nati in Italia, e se uno è nato in Italia forse è italiano. Basta sentire le loro voci, le piccole interviste che sono state fatte, basta girare il naso e rendersi conto che sono bambini che parlano il milanese, il romano, il napoletano, cioè sì, e sono compagni di scuola, esatto, dei nostri figli, e quindi a causa del fatto che rimangono stranieri, non so, non possono giocare nelle squadre, nelle nazionali, non possono fare lo sport, insomma hanno un sacco di problemi, e mi sembra evidente per tutti che se un bambino è nato qui a un certo punto diventerà italiano. Insomma, noi la pensiamo così: più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno. Esatto. Però 800 24 00 24 se volete intervenire, siamo qua, cerchiamo un personaggio della settimana che è un personaggio popolare. Adesso, come detto, parliamo di una novità italiana. Ti chiedo, mio amor. Sveglia, suona, buco in pancia. Scendo, moca, radio, gamba. Salgo, denti, doccia, barba. Leggo l'iPhone sulla tazza. Vendi, compra, Dow Jones, Nasdaq. Paga, tassa, broker, banca. Tanta gloria, quanta ansia. Stacco, basta, sbatta. Per non vedere il mio nemico basta chiudere il Mac. Le sue tipe di cognome fanno tutte JPEG. Fumo e leggo i tuoi commenti, sì, però per divertirmi. Ossessivo come un nerd. The big bang theory. I russi coi miliardi fanno shopping da trussardi. Una volta erano zar, sono diventati zarri. Sono tutti presi male dall'invidia verso gli altri. Serve mantenersi calmi con il metodo Bob Marley. Oh Maria Salvador, se chiaro. Ad alcuni mesi dall'approvazione della legge sulla produzione di canapa nel nostro paese, canapa a basso THC, cioè il anzi in teoria a nessun 0, THC 0,2 sì, bassissimo, è tollerato, ma insomma tollerato, la THC è la sostanza psicotropa. Sì, l'ho detto bene, cioè quella che sballa in sostanza. Sì. E allora si sta diffondendo però in Italia un uso particolare della canapa, un uso forse non previsto dai legislatori ma legale, il cosiddetto easy joint, cioè fra le varie cose che si può fare con la canapa è anche prendersela e fumarsela, anche se non è quella che sballa, ma... Cosa fa? Rilassa. E con noi ricordiamo che sì, comunque la marijuana ha anche un uso medico. Quindi sì, l'uso medico spesso è legato al rilassamento della sostanza e non del THC. Quella, esatto, però è con l'alto THC. Questo è col basso THC. Luca Marola, ideatore, fondatore di Easy Joint, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Devo dire che già dal nome siete andati giù abbastanza dritti. Easy Joint, che tradotto in italiano per i pensionati all'ascolto? Potrebbe significare pinello facile o leggero? La cannetta, io direi così. La cannetta. È nato un po' per gioco, siamo partiti da proprio per gioco durante un aperitivo, ecco. Easy Joint, partendo da Easy Jet e poi si è arrivati somiglianze. Hai cercato così di brandizzare subito seguendo un filone, quello del Easy. Allora, che poi è giusto perché anche il joint è low cost. Anche questo, esatto. Sì, ma un sacco di affinità. E quanto costa questo joint low cost? Questo... Ma per adesso diciamo che noi stiamo commercializzando barattoli da sì, 8-10 grammi di infiorescenze femminili di canapa e costano 17 euro, quindi circa 2 euro al grammo. Però chi ci sta ascoltando dirà: ma di cosa stanno parlando questi di grammi di canapa, infiorescenze? Allora, spieghiamo come nasce tutto questo, perché io ho detto ad alcuni mesi dalla nascita, dall'approvazione di una legge. Vai, ma di più, tu. Avete appena parlato dello Ius Soli e di quello che è successo in Parlamento. Sulla canapa per la prima volta invece si è trovata l'unanimità. Questa legge è stata approvata in Commissione Agricoltura al Senato in sede deliberante e approvata dall'unanimità dei gruppi parlamentari, quindi dei senatori presenti. Una legge a sostegno, proprio il titolo è questo, a sostegno della filiera della canapa. Ci sono delle novità su questa legge rispetto alla precedente, la tolleranza del THC in campo arriva fino allo 0,6, è esclusa la responsabilità penale del contadino, perché fino a qualche mese fa diciamo che se durante i test si fosse verificato un superamento del minimo di legge delle 0,2, arrivavano le ruspe e distruggevano il raccolto e il contadino finiva sotto processo per... Ecco, questo è importante dirlo, perché succedeva questo, che io magari stavo coltivando quella varietà di canapa che può servire per fare dei tessuti come il cotone, per fare dei prodotti alimentari, esatto, per fare degli intonaci, dei mattoni, sappiamo c'è tutta una filiera della canapa. E l'Italia un tempo era leader in questo, c'erano questo, è quello 100.000 che si sta ettari cercando di recuperare. Seconda produttrice in Europa, sì, e prima per qualità di canapa. Ecco, appunto, prima per qualità, però se io per caso producendo questa varietà basso THC qualche pianta superava i limiti consentiti, finivo sotto processo, perché qualcuno diceva giustamente: tu stai cercando di fare quella roba che ha un valore sul mercato, il mercato dello spaccio, e quindi che è illegale. È illegale, stai facendo una truffa. Adesso non è più così, c'è una tolleranza, nel senso che ti vengono sequestrate le piante se sfori i limiti, ma non finisci sotto processo. Quindi diciamo, questo è un po' il cambiamento di passo, il cambiamento di marcia che c'è stato. E voi in questo vi siete inseriti come? Che cosa vendete? Che cosa producete esattamente? In questo modo, partendo proprio dal titolo della legge, sostegno alla filiera. Di conseguenza la pianta è composta da tante parti, anche le infiorescenze, che stranamente non sono state previste dalla legge. Cioè il termine fiore e infiorescenza non è previsto in legge. Hanno preferito non glissare, segnare. Non citare neanche, non quello citare, perché suscita altrimenti altri parallelismi con la marijuana, perché il fiore è lo stesso, poi insomma anche senza THC, quindi ricorda la marijuana. Quindi anziché decidere come affrontare questa cosa, hanno preferito ignorarla. Certo. E noi ci siamo inseriti lì dicendo: eh no, cavolo, anche l'infiorescenza esiste, ci sono già aziende, perché comunque le infiorescenze per fare tisane così erano già in commercio in molti negozi di erboristeria, esistevano, quindi c'era già comunque questa piccola industria di produzione e di fiore. La birra di canapa è fatta mettendo a fermentare le infiorescenze al posto del luppolo, quindi già c'era questo, e abbiamo detto: inseriamoci in questo momento, quando ancora non sono stati comunque promulgati i decreti attuativi, che arriveranno tra qualche settimana, tra l'altro tra poco, esatto. E nel frattempo però avete avuto una marea di richieste. Questa poi è la notizia di questi giorni, cioè a sì, sei mesi dalla legge e a qualche mese dalla partenza vostra, praticamente un mese, siete partiti da un mese e avete avuto un sacco di richieste. Perché questo Easy Joint, che cosa serve, cosa fa, cosa... uno compra questa infiorescenza e si fa la sigarettina, chiamiamola così, o anche la tisana, si può fare anche la tisana? Sì, per valorizzare i principi attivi sarà meglio il decotto. Che consiste, la differenza tra tisana e decotto? Far bollire le infiorescenze in maniera gentile per un bel po', aggiungere un po' di latte, perché i principi attivi della cannabis valorizzano, ecco, con i grassi animali, quindi latte intero, burro, quelle cose lì. Sì? E sì, meglio il decotto della tisana, ecco. Perfetto. Oppure si fuma. Quindi non l'infusione solamente di 5 minuti dopo con l'acqua calda, ma con l'acqua con sotto la fiamma e mettendo... bollire. Ok, sì, questi appunto sono gli utilizzi che poi vengono fatti, ecco. Sì, però scusa, adesso... Esatto, usciamo... Adesso tutti vogliono sapere, ma che effetto fa questa roba qua? Cioè, rilassa, ma se io me ne bevo un litro di questa tisana mi sballa, perché alla fine c'è questa cosa qua che tutti si domandano. Però esatto, teniamo la suspense, perché adesso abbiamo un'informazione sul traffico. 800 24 00 24, ci rispondi tra pochi secondi. E noi fumiamo intanto. pranzo, mamma vecchia stanza, apro la finestra, dalla vicina che la naffia quando vado via in vacanza. Ho detto questo è un nuovo rosmarino dall'Olanda. E allora eccoci qua, 8:50 minuti di nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. E ben buongiorno da Carlo Gabardini. Siamo in compagnia di Luca Marola, ideatore di Easy Joint, che vende online infiorescenze di canapa a basso THC, che sono consentite dalla nuova legge approvata qualche mese fa, ma che non sballano perché c'è appunto poca sostanza psicotropa. Ma allora, cosa perché la gente si compra queste infiorescenze che, come ci hai detto tu, possono essere fatte a infusione, a decotto, oppure uno se le può tranquillamente anche sfumacchiare in qualche sigarettina? Sì, beh, molte persone la utilizzano al posto del tabacco, ad esempio, o sì, quando si fanno la mista per lo spinello o la canna, oppure da fumare liberamente, tranquillamente, senza nessun'altra sostanza dentro. Altri appunto la utilizzano perché soffrono di blande forme di disturbi, insonnia, leggere forme di insonnia o di ansia, e quindi il poco principio attivo comunque, non THC, parlo del cannabidiolo, del CBD presente, aiuta a superare, diciamo, questi fastidi. La maggior parte ovviamente la acquista e la usa e la prova per curiosità, al primo mese di vita, e quindi la componente curiosità è importante. Poi ci sono due altre categorie, diciamo, che acquista o chiede di poter acquistare Easy Joint, che sono o quelli che ci dicono non sto comprando un prodotto ma un pezzo di legalizzazione. Sono tanti quelli che scrivono questa cosa. Cioè che è un atto politico. Spiegacela un po' meglio sta cosa, che esatto, vuol dire? Noi abbiamo lanciato questo progetto dicendo proprio questo. Uno degli obiettivi, oltre all'aspetto commerciale ovviamente, è anche quello di cercare di normalizzare e quindi diffondere, normalizzare la questione cannabis attraverso appunto il far vedere, toccare parte della pianta e far capire che questa è solo una pianta, è principalmente una pianta, non è il demonio. E c'è dietro anche un progetto di alfabetizzazione. Noi raccontiamo, adesso se tutti sanno che cos'è il CBD, il cannabidiolo, è perché appunto la prima varietà aveva un contenuto importante di CBD, e abbiamo raccontato che cos'è questo principio attivo, quello che rilassa ma non sbaglia. Certo. Però ti vorrei fare una domanda, Luca, non temete che in questo modo si possa riaprire la vecchia questione, cioè della demonizzazione della canapa, proprio perché potrebbe diventare un modo per introdurre, per legalizzare di nuovo la canapa, quella ad alto THC, e quindi certo, tornare di nuovo a limitare, a fare di nuovo un passo indietro rispetto alla legge che invece vuole riaprire questa filiera, che come dicevi anche giustamente tu, questa pianta ha molte virtù, tra cui quelle che promuovete anche voi, però questi decreti attuativi di luglio, cosa ti aspetti che facciano? Sì, che... Beh, intanto brutalmente io non sono un contadino, ma sono da 15 anni un attivista politico sulla legalizzazione della cannabis, quindi ha questo aspetto, e sarà divertente vedere se si blocca l'infiorescenza senza THC soltanto perché c'è qualcuno ossessionato all'idea che la marijuana sia appunto il demonio. Cosa mi aspetto dai principi a metà luglio, quando verranno applicati, o meglio pubblicati, i decreti attuativi? Beh, mi aspetto questo, che da oggi al 16 di luglio tutti i portatori di interesse sulla canapa legale, industriale, quindi, ossia agricoltori, federazione degli agricoltori, federazione della canapa, ritornino al tavolo e rinegozino anche la questione delle infiorescenze. Noi abbiamo dimostrato a questa gente come anche il fiore abbia un valore commerciale. Adesso noi paghiamo il fiore in campo il triplo del costo rispetto a come era un mese fa, quindi stiamo subendo il nostro successo. Ora ha un valore commerciale anche quella parte di pianta, e quindi auspico che appunto le federazioni degli agricoltori e della filiera della canapa ritornino al tavolo e battano i pugni perché anche quella parte di pianta venga valorizzata e normata in Italia, perché è assurdo questa cosa qua, la rimozione anche dal punto di vista letterale del termine dalle leggi. Comunque manca molto, ormai manca luglio, un mese. Sì, ma manca poco, e mi sembra interessante il fatto di dire, senza dimenticare il lato commerciale, che in realtà è un atto politico, giustamente per aprire gli occhi sul fatto che forse c'è un'ostracizzazione nei confronti della cannabis che va oltre, cioè addirittura appunto decidere di omettere le fluorescenze quando si sta parlando della cannabis per altri usi, quindi per usi industriali, è, è veramente una follia. Ti volevo chiedere una cosa, diciamo, nella canna normale, quella che invece è illegale, che non si fuma, il THC quanto di solito quanto raggiunge? Anche il 20%, si parte di solito da un 6-7%, la vecchia Skunk, diciamo, aveva un 6-7% di THC e poi da incroci e selezioni di varietà si può arrivare anche al 20%. Ad esempio il Bedrocan, che è uno dei tipi di farmaci cannabinoidi, quindi infiorescenze, anche qua sono infiorescenze quelle che si comprano in farmacia, quindi cannabis terapeutica, certo. Il Bedrocan ha il THC al 23%. Qua stiamo parlando, lo dicevo forse per tranquillizzare, un litro di decotto, per dire che siamo molto più bassi, insomma, non è che siamo lì con le percentuali, questo è importante. Grazie al fondatore di Easy Joint, Luca Marola, per essere stato con noi. Chiudiamo 800 24 00 24, ma torniamo dopo il... Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sento parlare di alleanze con la Lega, è fantascienza allo stato puro. Non ci sarà nessuna alleanza con la Lega, non faremo niente di simile alla Lega, perché noi siamo il Movimento 5 Stelle, siamo un'altra cosa e faremo un altro tipo di percorso. 9-8 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini, buona domenica. Questa qua è un po' la notizia della settimana, questo incontro segreto, non segreto, tra Salvini e Casaleggio, ma soprattutto noi abbiamo fatto anche il gioco ieri su questo negare l'evidenza di una possibile alleanza, perché non c'è niente di male, tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, perché no? Ci sono convergenze, va bene. Assolutamente. Basta dirlo. Magari è così segreto che anche alcuni del Movimento 5 Stelle non sanno di questo incontro, cioè si inizia a avere anche questo dubbio. Comunque ieri ci ha chiamato il padre di Di Battista, sì, per rispondere esattamente a questa cosa qua. A questa cosa, però poi ha detto un sacco di altre robe, se tu c'hai l'amante, se non c'hai l'amante, sono fascista, non sono fascista. Sì, però ha detto che se l'incontro ci fosse stato e qualcuno lo nega sapendolo, non sarebbe degno di nulla, lo ha definito piccola testa di C. Esatto, riferendosi eventualissimamente a Di Maio. 800 24 00 24, io non riesco a vedere la schermata degli ascoltatori, però dovremmo giusto, avere... siamo in radio, non sì, si vede, si sente solo la voce degli ascoltatori. No, perché c'è un piccolo intoppo col mouse, sai quando il mouse si blocca? Pierpaolo da Firenze, può darsi? Sì, può darsi ed è giusto. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. 24. Ci siamo già sentiti qualche sabato fa. Ah. Su un altro argomento, come state? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tu in quel di Firenze? Una giornata caldissima già a Firenze quest'oggi, però io volevo fare un appunto per quanto riguarda gli Ussoli. Il 9 maggio del 2003 uscì nelle sale qui a Firenze, poi credo abbia girato anche l'Italia. 9 maggio del 2003, eh? Sì, del 2003. Sei uno che si ricorda tutte le date o solo no, questa? No, mi sono andato a prendere la scheda del film. Va bene. Anche perché c'è Mohamed Hanifi, che è un amico praticamente, fa la parte del padre di Said, che è interpretato da Lorenzo Baglioni. E appunto Haider Rashid, io lo so perché io ho una radio web e sono venuti a trovarci da noi, quindi la storia la so abbastanza bene. Ma allora, il 9 maggio del 2003 che cosa succede? Esce un film. Si intitola Sta per piovere. Sì? Sì. È appunto la storia di Said, 26 anni, nato a Firenze, va bene, da madre e padre algerini, che padre e la madre sono algerini, ma già a Firenze. È la storia lui di un ragazzo di seconda generazione, cosiddetto. Di seconda generazione, che è costretto, sì? Gli viene rinnovato il permesso di soggiorno perché il padre perde lavoro, ma lui in Algeria non c'è mai stato. Sì. Quindi perché il padre perde lavoro, lui non gli danno il permesso di soggiorno, cioè non è cittadino italiano, se diciamo serie B. Mi sembra un esempio molto preciso, anche perché lui in Algeria non è mai stato. Andatevi tutti a cercare questo film, sta per piovere. Sì. Molto bene. È la storia di questo ragazzo. Va bene, Pierpaolo, noi stiamo per chiudere, perché no, ti abbiamo dato questi due minuti per ricordare questo film, che è una storia. Vedi, secondo me, perché l'Italia e gli italiani siamo abituati a una diversa concezione di cittadinanza. Noi abbiamo dato per tanto tempo la cittadinanza ai nostri espatriati, perché noi eravamo portatori sani, c'era cioè un saldo positivo di immigrazione, quindi ci facevamo in modo che si portassero dietro la cittadinanza. Adesso le cose si sono rovesciate sì, in realtà si torna ancora più indietro, sì, perché lo Ius Soli è dell'impero romano, insomma, se nasco sotto questo sole. E quindi sta per piovere, un film che quindi in qualche modo Pierpaolo ci invita a vedere per riflettere. Elisa dalla provincia di Alessandria, vi ricordo che stiamo anche cercando un personaggio di questa settimana. Fa un po' daremo un secondo indizio. Adesso abbiamo detto che è popolare. Elisa, buongiorno. Vai. Pronto? Sì, ti sento. Allora, io ho pensato alla regina Elisabetta. Benissimo, per quale motivo la regina Elisabetta? Perché nei giorni del suo compleanno, di questi magnifici festeggiamenti, è andata a rendere omaggio alle vittime e ai soccorritori della torre. Della Grenfell Tower, sì. È stato anche detto che insomma si sono, diciamo in qualche modo, sono stati percepiti più positivamente loro del governo e del premier Theresa May, che è stata invece molto contestata. Beh sì, la notizia ci sarebbe, anche se il compleanno della regina è più là, è più vecchio, però insomma diciamo come protagonismo sulla scena della regina Elisabetta, Elisa ci invita a scegliere lei come personaggio, però non era lei il nostro personaggio, quindi continuiamo, grazie Elisa, a cercare ancora un personaggio popolare. 800 24 00 24. Maurizio da Lodi. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sentite, io non so se mi sto inserendo al momento giusto, perché in realtà volevo, se mi è consentito, dire una parola circa il personaggio che avete mandato ed intervistato prima in onda, che parlava di cannabis. Di Easy Joint, il fondatore di Easy Joint. Io non lo citerò, fa niente se non lo cito. Aspetta, va bene, però voglio ricordare una cosa, perché è andato in onda mezz'ora fa, ascolta adesso, dici di cosa stanno parlando, di quel signore che vende online le infiorescenze di canapa a basso THC, quindi senza sostanza psicotropa, chi vuole non fare solo infusi, online, perché in realtà o i decotti, o fumarselo, eccetera, eccetera. È rilassante, ma non sballa, questo è il punto. È il punto. Io vorrei essere brevissimo, capisco i tempi. Mi domandavo se questo signore che si riferiva a questa pianta, dicendo in fondo è solamente una piantina, se ha mai avuto occasione di stare vicino ad uno che fa il mio lavoro. Io sono un medico, sono appena uscito ad uno che fa il mio lavoro, io faccio il medico, sono appena uscito da un ospedale, e con le persone che passano per il tramite degli effetti, dell'efficacia proprio degli stupefacenti, ho a che fare con loro tutti i giorni. Ora, mi domandavo se, ma io non voglio parlare di liberalizzare sì o no, mi domandavo se questo signore si fosse mai posto questa domanda, e cioè qual è l'assetto psichico di una persona che decida di fare uso di stupefacenti, e segnatamente mi rivolgo ai giovani. È un giovane che cresce, che a un certo punto ma sicuramente ne conosce qualcuno, nel senso che tutti noi conosciamo persone che fanno uso di marijuana, non è che è una percentuale altissima. Maurizio, ti è chiaro che lì si parla di una infiorescenza che non ha nulla a che fare con quello che dici tu. Certo, non è vero, mi riferisco come a non è cosa. Vero ce l'ho chiarissimo, perché se mi permettete, oltre ad essere un medico, sono un perito agrario e una laurea anche in medicina veterinaria, quindi so come si digeriscono le piante negli animali. Quindi conosco la materia, fidatevi. Io mi riferisco all'assetto psicologico, al perché un ragazzo che magari è borderline, con una serie di patologie, ed è questo quello che non viene mai discusso e che è importante. Forse più importante, liberalizziamo la sta droga, ma facciamo sì che si possa veramente prendere per mano la motivazione vera per cui un ragazzo in crescita potesse decidere di fare uso di stupefacenti. Perché vi assicuro, fatelo, l'avete detto voi, alla radio ci fanno le chiacchiere, fate i fatti, andate a parlare con queste persone. Fate i fatti, nel momento in cui parliamo. Però mi scusi, no, mi chiedo scusa. Non ci sarà nessuno che vi dirà drogatevi, tutti questi, tutti. ve lo assicuro, è il mio lavoro, dicono, e dicono a tutti quello che hanno intorno, non cominciate con lo spinello, lasciate stare e fortificatevi dentro, poi liberalizzatela, ma quando la gente, quando i giovani saranno veramente accuditi da un sociale che li renda no, poveri. Però mi scusi, appello, mi però scusi, se posso dire, questo, se posso dire mi sembra questo un discorso molto preciso su le cosiddette droghe pesanti, non penso minimamente che chi fa uso di marijuana è borderline, è una percentuale altissima nel mondo. Lei abbia ragione. E no, io glielo voglio chiedere. No, ma lei rispondo, è più esperto di me di sicuro, le volevo semplicemente dire che io non penso nemmeno che uno che beve un bicchiere di vino sia borderline o abbia dei problemi psichici, eppure il vino certo che ha degli effetti sulle persone e sono anche effetti che ci piacciono moltissimo a tutti. Le voglio dare ragione, ma le voglio dire una cosa importante, che credo che ha detto quel signore di prima. Il signore di prima, che fa business ed è molto bravo probabilmente per questo, ha detto, ascoltate la registrazione della trasmissione, ha detto c'è una quota estremamente significativa di persone che prendono questa cosa, seppur a bassa concentrazione, di principio attivo, per provare, per vedere. Allora io vi invito a capire il perché una persona possa essere tesa a provare una cosa di questo genere, perché potremmo evitare dei guai ad un sacco di ragazzi giovani. Va bene, Marco, Maurizio, grazie. Accogliamo naturalmente il tuo invito, il tuo appello, per chi è d'accordo con te, ma anche per chi non è d'accordo con te. Voglio solo ricordare però che quello di cui stavamo parlando poco fa non ha nulla a che vedere col provare, sì, ma una cosa che non sballa, che ha un basso contenuto di THC, che uno prova, probabilmente se lo prova con l'obiettivo di sballarsi rimane deluso e non lo compra più, ecco, questo, mettiamola così, è il punto. Una tendenza che però si sta diffondendo evidentemente perché c'è curiosità, attenzione, interesse, ovviamente anche sulla possibilità della liberalizzazione, la legalizzazione, quella sì, della cannabis vera e propria. E del resto Luca, il fondatore di Easy Joint, ha detto che tutto sommato quello è anche il suo interesse, il suo obiettivo, però quella cosa che si vende adesso e che si chiama Easy Joint non ha gli effetti di cui stavamo parlando poco fa, semplicemente perché non c'è dentro sostanza. 800 24 00 24, possiamo sentire prima di chiudere la questione Casaleggio e Calabresi per il famoso incontro segreto, ritorniamo su questo, perché Casaleggio dice se riuscite a dimostrare che c'è stato questo incontro tra me e Salvini, allora sentiamolo. Io voglio sapere qual è la data, il luogo e l'ora in cui avrei incontrato Matteo Salvini. Pubblicherò la mia agenda personale e se necessario porterò i testimoni che dimostreranno che io in quel momento non ero altrove. Se sarà dimostrato, e sarà dimostrato, che io in quell'ora, in quel luogo e in quel momento stavo facendo altro, allora credo che coerentemente il direttore Calabresi dovrà dimettersi. E così gli risponde il direttore di Repubblica Calabresi, sentiamolo. Repubblica conferma che l'incontro tra Matteo Salvini e Davide Casaleggio c'è stato. Siamo in grado di confermarlo perché abbiamo due ottime fonti che ce lo hanno raccontato ieri, con cui abbiamo fatto le nostre verifiche e che ce lo confermano anche oggi. L'incontro c'è stato, si è svolto a Milano ed è stato chiesto dal leader della Lega. Casaleggio glielo ha accordato e hanno parlato ed era precedente al momento in cui la legge elettorale è fallita nell'aula di Montecitorio. To be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves. È questa canzone dei Beatles, Octopus Garden, che parla di quello che c'è nelle profondità dei mari. Spesso c'è anche tanto inquinamento dovuto a plastiche e soprattutto a anche a petroli vari, idrocarburi che galleggiano. Allora, tutto questo perché è con noi Marco Astorri, fondatore di BioOn, un'azienda italiana incredibilmente rivoluzionaria. È una notizia stupenda, una notizia stupenda. Eccezionale. Marco, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la tua azienda nasce quando? Facciamo così, domanda e risposta, veloce. Nasce nel 2007 a Bologna. 2007 risposta a Bologna. Esatta. tu prima ti occupavi di altro, hai deciso di puntare sulla plastica biodegradabile, vero? Sì, nel 2007 per caso ero fornitore di ski pass, no? Quelli contactless che oggi si usano senza banda magnetica, sì. E mi fu chiesto di trovare un materiale che non fosse né carta né plastica, perché non si scioglievano nella neve quando poi dopo, certo, venivano buttati via. E ho scoperto questo mondo dei biomateriali e ho deciso di vendere la piccola quota che avevo in questa importante società di silicio e dedicarmi in maniera proprio da neofita totale nel trovare il biopolimero del futuro, cioè la plastica potesse sostituire quella che oggi tutti conoscono. Ecco, se tu parli con Marco Astorri, lui ti dice le cose così, cioè trovare la bioplastica, no? Come se uno apre un cassetto in casa e trova la bioplastica. Ma è stupendo cioè... anche il prologo, ero fornitore di ski pass, sì. che sembra un inizio disneyano, cioè che è il pusher degli ski pass, e dovevo trovare una plastica, ovviamente siccome va sulla neve, che non inquinasse, no? Però che non si sciogliesse. E l'hai trovata, cioè nel secondo cassetto in basso della cucina hai trovato un biopolimero. No, abbiamo fatto, visto che non sono uno scienziato, sono soltanto un imprenditore, ho deciso di investire 7-8 mesi, pochi soldi che avevo da parte assieme al mio socio, nel cercare su internet delle soluzioni che esistessero già, perché è incredibile, qui... su internet c'è una gente di cerca, sì. Trova, però aspettate, perché detta così sembra una barzelletta, ma stiamo parlando invece di una cosa la tua gigantesca. Un'azienda, tanto per dirne una, un'azienda quotata, no? Sì, siamo quotati in borsa dal 2014, oggi la nostra azienda capitalizza 350 milioni di euro. Ecco, giusto quindi... per la precisione dei numeri. Però ti ho interrotto, ti sei messa a fare ricerca, hai investito, hai, sì, fatto ricerca su internet, sì, e hai trovato che cosa? Abbiamo trovato in giro per il mondo un sacco di persone che stavano lavorando per sviluppare un'idea vecchia di 100 anni, che è stata scoperta da un scienziato francese, Lemonge, che è il poliidrossido canoato, il PH, che è una bioplastica fantastica perché ha le stesse caratteristiche della plastica fatta dal petrolio, quindi con la stessa qualità, nulla che a vedere con la bioplastica che tutti conoscono oggi di sacchettini, sportine, bicchierini, che il più delle volte è più debole rispetto all'altra. E si spaccano. Esatto, e questo scienziato francese 100 anni fa individuò, prima della nascita della plastica, perché la plastica è un'invenzione italiana con Natta, che è l'unico Nobel, certo, della come chimica, no? E individuò dei batteri non patogeni, cioè amici dell'uomo, che ci sono da milioni di anni, che nell'arco di 30-40 ore, mangiando delle fonti di carbonio, quindi degli zuccheri, producono al loro interno una riserva di energia, come per noi esseri umani è il grasso, e questa riserva di energia è poliestere lineare, cioè plastica, ottima plastica. Che poi è destinata però, essendo una riserva di energia, perché tu hai anche la capacità di spiegare le cose in modo che le capisco anch'io, è una riserva di energia che poi quindi svanisce e si degrada nell'ambiente. Sì, per cui... essendo fatta dalla natura, ovviamente è totalmente biodegradabile in natura. Torna alla natura. Quindi ha un, esatto, periodo di durezza che ci serve come, sì, materiale plastico. Non poi... è idrosolubile, per essere chiaro, cioè, sì, non viene sciolta dall'acqua, no? Ma viene rimangiata da altri batteri, quindi se la metto nel mare, nei fiumi, nella terra, malauguratamente sono stupido e quindi la butto via, a differenza dell'altra che non si biodegrada neanche in migliaia di anni, anzi crea dei problemi, questa viene totalmente riportata allo stato naturale, come se fosse legno, per esempio. Esatto. Ora, siccome la notizia, io vado alla conclusione, però poi torniamo a riprendere la storia. La notizia recente è che con tra le varie scoperte che avete fatto, avete scoperto che questa plastica biodegradabile, io banalizzo, ha anche la capacità di ripulire il mare in qualche modo dal, sì, petrolio, e quindi questa, sì, è la notizia. Avete presentato recentemente questo ultimo step. Ma tornando indietro, che tipo di usi ha questa plastica biodegradabile? Cioè, cosa ci si può fare con questi? Cosa producete? Allora, immaginate tutti i tipi di plastica che conoscete, quindi quella visibile e anche quella invisibile. Oggi la plastica ci pervade ovunque, no? Nelle automobili, negli oggetti di casa, nei vestiti, pensate ad esempio al pile, no? Cioè, nel senso, è ovunque la plastica. Ecco, la plastica oggi può essere sostituita, quella plastica che è fatta dal petrolio, quindi non è biodegradabile, molte volte purtroppo rilascia prodotti che sono anche cancerogeni, o se viene bruciata inquina tantissimo, oggi può essere sostituita da plastica che esiste da sempre, da milioni di anni, e che fanno batteri che sono nostri amici. Cioè, esiste da sempre, ma non ce ne eravamo accorti. Scusa un attimo, nel senso, quindi da domani tutta la plastica verrà sostituita da questa plastica? Può essere sostituita, c'è un piccolo problema. È questo che mi preoccupa. No, cioè, nel senso, tenete presente che la plastica ha avuto talmente successo dagli anni 50 che cresce il consumo della plastica del 5-10% ogni anno. Oggi si producono e vendono nel mondo 300 milioni di tonnellate di plastica, quindi sono decine di migliaia di stabilimenti che producono questa plastica. Quindi cambiare, pensate, tutto non è una roba facile. Ci vuole tempo, certo. Sì, nel senso che noi siamo stati bravi a trovare una buona soluzione. Adesso serviranno un po' di anni per fare gli stabilimenti. Ma però si farà, cioè, quello che mi chiedo, si sta andando verso quella direzione? Cioè, certo, per dirla con una domanda stupida, avremo finalmente dei sacchetti di plastica al supermercato che possono reggere anche 2 litri di latte, e però queste sono biodegradabili o no? Sì, certo, in più tante altre cose, anche i paraurti dell'autovettura, hai ragionissimo. Tra l'altro, una delle non ho la patente invece e spreco un sacco di sacchettini di plastica quando compro le cose che hanno delle punte. Pensavo di paraurti. Uno dei brevetti che state sviluppando riguarda le creme solari, cioè io non lo sapevo, ma le creme solari sono fatte di palline di plastica praticamente. Sì, più tutti o meno. I prodotti cosmetici che ci mettiamo addosso nel corpo, ma sì, molti anche che assumiamo al nostro interno, hanno delle microparticelle di plastica invisibili, servono per poter portare nutrienti, coloranti, brillantanti, cioè shampoo, creme solari, trucchi per il volto, eccetera. Sono tutti pieni di microparticelle di plastica che servono per fare. Esatto, però in America sono state messe al bando questi microgranuli di plastica, esatto, e in Europa si sta ancora discutendo, perché Obama ha messo una legge piuttosto severa su questo, e lì voi avete aperto la strada alla commercializzazione dei vostri prodotti. Sì. Abbiamo deciso di fare un impianto qui a Bologna che sarà aperto il prossimo anno direttamente. Era troppo importante questa cosa per licenziarla solo, quindi cercare di farla direttamente per fare gli standard, quindi abbiamo investito 20 milioni di euro per iniziare a dare questi prodotti che sostituiranno gradatamente tutte le bioplastiche all'interno delle formulazioni dei prodotti cosmetici. Quindi, per tornare all'esempio di Carlo, io potrò mettermi la crema solare senza sentirmi in colpa, che poi si scioglie nel mare e magari inquina e si vedono le onde galleggianti di plastica. Scusa, ti volevo chiedere un'altra cosa, nel senso che la cosa che non capisco è se questo è un cambio epocale, cioè se ci stiamo dicendo che questo è un cambio epocale, o se questa è una delle varianti, no? Come quando si dice finalmente hanno inventato i piatti di plastica che in realtà sono compostabili. Volevo capire questo. Secondo noi lo è, perché abbiamo scoperto industrializzato una cosa che esisteva da tempo ma nessuno c'era riuscito. In pochi anni siamo diventati un'azienda la più importante quotata al segmento AIM della borsa di Milano e di Londra. Abbiamo assunto 40 persone in poco tempo, altre 40 ne assumiamo quest'anno, quindi la nostra sta diventando una multinazionale in pochissimo tempo, quindi ci sentiamo di essere partecipi di un cambio epocale. Poi ovviamente, essendo chiamati da tutte le multinazionali del mondo, le aziende più importanti, lo vediamo quotidianamente. Quindi stiamo cercando di fare bene quello che molte volte agli italiani capita, cioè di arrivare per primi nelle condizioni più difficili. A proposito, voi avete sviluppato le ricerche sull'ultimo prodotto, quello per pulire il mare dal petrolio, che adesso ci racconterai, perché è molto affascinante anche questo. Sembra tutto facile quando parla Marco Astori. In un altro cassetto della cucina hai trovato questo prodotto che serve per pulire il mare dal petrolio, e lo stai facendo in collaborazione con il CNR di Messina, di ritorno però dall'America, perché ricerche l'hai sviluppate in Florida. Sì, questo brevetto è il sesto che abbiamo presentato dei 60 che abbiamo già, che presenteremo nei prossimi anni, continueremo a sviluppare, quindi è tantissima roba, diciamo. Questo mi fa particolarmente contento, perché avevamo iniziato un finanziamento negli Stati Uniti per sviluppare quest'idea qua, all'Università delle Hawaii, in mezzo al Pacifico, uno dei più importanti istituti oceanografici. Loro, molto trasparentemente, collaborando con noi già da diversi anni, da 8 anni, ci hanno chiamato dopo un paio di settimane e hanno detto: grazie per il budget che avete messo a disposizione, però guardate, i migliori del mondo non siamo noi, sono a Messina. E questa è stata una cosa per noi fantastica, perché non tu lo sei sapevamo. Saltato sulla sedia a Messina, sono venuto fino alle Hawaii per investire, sì, sì, fare ricerca, e voi mi rimandate a Messina. Invece esatto, è una notizia, ecco, sì, stupenda. Ma scusami, prima tu io li adoro quelli delle Hawaii. Prima tu stavi dicendo stiamo facendo una cosa che gli italiani hanno fatto spesso, ovvero di arrivare per primi a inventare qualche cosa. Però spesso gli italiani arrivano per primi e poi si fanno fregare il brevetto, l'invenzione. Beh, noi non, cioè, noi non accadrà piccolo... questo, vero? Beh, allora, tipo Meucci col telefono, così per dirne noi una. Noi abbiamo 10 anni di vita. Innanzitutto patentiamo, cioè brevettiamo tutto in tutto il mondo, investendo moltissimo. E poi vorrei dire, da questo punto di vista, pensiamo di no, anche perché abbiamo usato sempre un tipo di finanza che io definisco medievale, cioè non ci siamo mai indebitati, quindi è un'azienda la nostra che è sempre cresciuta reinvestendo quello che guadagna. Quindi una delle, purtroppo, delle più brutte possibilità delle aziende italiane è indebitarsi molto, quindi diventare facile preda di multinazionali. Certo. La nostra è un'azienda che è fortissima perché è quotata in borsa, ha tanti capitali, investe sulle persone e non ha debiti. Vabbè, state in guardia lo stesso. Ti voglio benissimo e direi che a questo punto ti vorrei chiedere di riportare in Italia anche la Gioconda, così proprio la chiudiamo. Siamo a posto. Allora, però, prima di chiudere, di salutarci, sì, Marco, in 30 secondi ci racconti, sì, come funziona il prodotto, le plastiche, sì, che puliscono, sì, il mare dal petrolio. Noi diciamo, come la plastica inquina? No, in questo caso la plastica, sì, biodegradabile, se la metti in mare... No, abbiamo scoperto che le microplastiche, quelle che facevamo già per la, sì, possono essere fatte, quindi di pochi micron, sono delle micro boe, cave, fate, immaginatevi delle particelle con delle cavità che noi buttiamo nel mare dove c'è il petrolio. Queste non fanno altro che essere l'aperitivo, diciamo così, di batteri silenti e spenti che sono già presenti in tutti i mari del mondo, che sono voraci di petrolio, solo che questi, per svegliarli, attivarli, non hanno gli elementi giusti. Uno degli elementi giusti, l'unico elemento giusto, è il nostro biopolimero, che li attiva, li ospita, dopo 5 giorni li riattiva, questi si mangiano il nostro biopolimero, che è completamente naturale, e poi dopo finiscono l'opera mangiando il petrolio e pulendo il mare in 2-3 settimane. E poi questa spariscono, la cosa incredibile è che spariscono questi batteri, questi zii, sì, perché cioè, è come se avessero... hanno un ciclo di vita, esatto, possono o riaddormentare, quindi si rimettono, si spengono di nuovo, o se no finiscono il loro ciclo di vita e si svegliano, mangiano il petrolio e si riaddormentano. Esatto. È stupendo. Credo che aprirò a Milano un bar e lo chiamo aperitivo per batteri. Allora, però ricordiamoci una cosa, che non bisogna comunque inquinare. Non è che siccome c'è, certo, Bion, certo, che arriva e ripulisce il mare dal petrolio e che produce plastiche biodegradabili, non è che siamo autorizzati quest'estate a buttare qualunque cosa in mare. Non fatelo, semmai si cerca di recuperare i danni già fatti. Grazie Marco Astori Bion. Grazie a voi. Una grazie mille, complimenti. Incredibile, bellissima. Insomma, li seguiamo a distanza, però è veramente incredibile. Poi, naturalmente, tutto quello che ha detto si assume lui le responsabilità. Noi non è che abbiamo fatto delle verifiche scientifiche, perché non è questo il nostro compito. Facciamo un po' di cronaca, facciamo parlare i protagonisti. Però, insomma, credo che sia sotto gli occhi di tutti, perché diciamo la veridicità di quello che ci ha raccontato Marco Astori. 800 24 00 24, Saverio dalla provincia di Ragusa, prima di andare in pausa, benvenuto Saverio, vai. Buongiorno. Allora, io secondo me il fatto della settimana è il portiere del Milan, Donnarumma. Perché? Personaggio popolare. Pronto? Sicuramente. Quale sarebbe la, sì, notizia su Donnarumma? La situazione, una settimana che la televisione, il giornale ne parla perché lui non ha rinnovato. Non ha prolungato il contratto con il Milan, che scade a giugno del 2018. E si parla, credo, di un interessamento del Real Madrid. Perché, anche della Juventus. Anche della Juventus, di tutti. Saverio, però, non era lui il personaggio. Ah, mi dispiace. Diamo un altro indizio? Vai. Diamo un altro indizio. Allora, il personaggio che stiamo cercando gli han portato via qualcosa. Popolare, gli hanno portato via qualcosa. 800 24 00 24, siamo qua. La città di Roma, ha una grandissima intuizione, è pagina 2 del Tempo, magia a 5 stelle, le funivie saranno 3. Quindi a tutti i cittadini che sono un po' arrabbiati magari per le questioni dello sciopero dei trasporti, si sappia che il Comune di Roma immagina di fare non una ma 3 funivie per gli ski lift. Ci stiamo attrezzando. Ecco, questa è l'ironia di Matteo Renzi in un Matteo risponde, credo, sul progetto di funivia a Roma, che nel frattempo è diventato progetto di più di una funivia a Roma. Però io dico, scusa, ma perché deve fare questi discorsi? Allora, c'è qualcuno che gli scrive i discorsi? Allora, forse gli conviene che cambiarlo, trovare qualcuno che si documenti di più. Gli scappano perché ha degli impulsi e lui deve sempre essere sulla notizia. Ma non ho capito di che cosa lui prende in giro il fatto che a Roma la giunta Raggi sta studiando il coso dei funivie e dice per lo ski lift ci stiamo attrezzando. È una battuta però. Si deve trattenere ogni tanto da queste battute. Oppure lui è veramente convinto, perché temo che ogni tanto lui sia veramente convinto di quello che dice, però dovrebbe approfondire, studiare Renzi, dovrebbe stare sui dossier, sulle cose, perché non basta la sbloccare, la rottamazione e noi siamo quelli del nuovo eccetera eccetera, bisogna stare sui contenuti delle cose. Per esempio, l'abbiamo detto mille volte, sull'ambiente non si è mai documentato, sulla necessità di fare meno inceneritori e più economia circolare. Adesso sulle funivie, perché deve dire che è una cavolata? C'è in tantissime città del mondo, da Città del Messico a Istanbul, perché non ci può essere a Roma la funivia? Ma certo che ci può essere, ma nessuno dice che non ci può essere. Beh, ma iniziamo a far arrivare il 63 barrato, però poi dopo mettiamo pure la funivia, molto ma volentieri. No, cavolare. Solo funivie. Allora, 800 24 00 24, ripetiamo gli indizi, cerchiamo un personaggio della settimana che è popolare, ma anche gli hanno portato via qualcosa. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala. Va bene, avete capito, parliamo di due ruote, perché ragazzi, non so quanti se ne sono accorti, ma si festeggia, certo, si celebra l'anniversario, un gran compleanno, 200 anni. Cioè io pensavo che fosse più antica la bicicletta. Invece è giugno 1817. Ma com'erano queste biciclette delle origini? Lo chiediamo a Francesco Baroncini della Federazione Amici della Bicicletta, che ritroviamo volentieri. Francesco, ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato a voi, ben ritrovato ad ascoltatrici ed ascoltatori. Allora, compleanno della bicicletta, cifra tonda. Davvero io pensavo che fosse più antica, che ci accompagnasse chissà da quando. Cioè, ti immaginavi Giulio Cesare in bicicletta? Giulio Cesare forse no, però è noto un disegno, uno dei tanti disegni di Leonardo, che riporta più o meno una bicicletta. Il concetto è quello, il disegno è abbastanza simile a quello che sono le nostre bici. E poi cos'è successo in tutti quelle centinaia d'anni tra il disegno di Leonardo e quello del barone Carl von Drais? Anforato, l'hanno lasciato a casa. Anforato. Meno sì, buona la battuta. Più o meno sì, o forse il cavallo era ancora la cosa più efficiente per spostare uomini e persone e pesi anche. Ma la bicicletta è un mezzo efficiente dal punto di vista energetico? E tu hai detto questa parola, efficiente. A me è sempre sembrata molto efficiente, perché non consuma un tubo. Ma mettiamola così, la bicicletta pesa una 15, 18, 20 kg, 12, dipende dal tipo di bicicletta, e ne sposta circa 80, che è il peso di una persona. Sì. Un'auto pesa una tonnellata e sposta gli stessi 80 kg. Da un punto di vista di uso dell'energia, di efficienza, non basterebbe questo. Beh, un'auto ne porta più di una persona, però. Però mediamente... Ma facciamo anche il rapporto. Certo. La bicicletta porta molto più peso di quello che pesa lei stessa. Giusto, giustissimo, giustissimo. Per fare una tonnellata di persone, insomma, ci vuole... No, no, tra l'altro è giustissimo. Una tonnellata di persone probabilmente non può essere trasportata da un'automobile che pesa una tonnellata. Non da una macchina sola, sì. Esatto. Invece tu in bicicletta puoi far sedere sul manubrio, sulla canna, un amico, un'amica, una donzella, una gentil donzella. Si possono fare queste cose qua, anche se si vedono un po' meno in alla giro mazzone. Ultimamente, soprattutto a Milano, dove ci sono il pavé e i binari del tram, non te lo dico. Beh, sì, è abbastanza complicato spostare una persona, portare una persona sul manubrio o dietro sul portapacchi. Beh, però, nelle nostre città io l'ho fatto a Milano, sempre da ragazzino che andavo a scuola in bicicletta, succedeva assolutamente. Un po' di sana incoscienza, sì. Vabbè, bisogna usare il casco per andare in bicicletta oggi secondo te in Italia? No, non è necessario. Non è necessario, non è fondamentale. Posso, mi sento come FIAB e anche come persona, mi sento di consigliarlo, perché un casco serve, aiuta molto ad essere visti. Sì, questo è vero, un bel casco colorato. Con le orecchie. Casco colorato, giallo, vedi ancora così, è molto visibile anche di notte, aiuta molto ad essere visti. Perché diciamo una cosa, no, Francesco? Perché i nostri ascoltatori che magari ci stanno sentendo, automobilisti mediamente, sicuramente anche tanti ciclisti, ma tanti automobilisti pensano subito all'inciviltà del ciclista, il ciclista che mi va in contromano, il ciclista che pensa di avere tutte le ragioni del mondo. Però dobbiamo ricordare anche che il ciclista, insieme al pedone, è quello che sulle strade si fa più male di tutti, al di là del fatto dell'inciviltà o meno. Assolutamente. Perché uno dice è incivile, sì, però poi ci rimetto io, le penne sono le mie, quindi assolutamente il discorso di andare controsenso è una questione in realtà di sicurezza mia di ciclista. Io vedo sicuramente la macchina che mi arriva, mentre se mi arriva da dietro non la vedo, perché questo è vero, in effetti è vero. Io capisco che l'automobilista, sono in grado io ciclista di gestire l'auto, esatto, io capisco che l'automobilista la digerisca male questa cosa, la digerisce male, però è vero che la maggior parte degli incidenti, spesso ahimè quelli mortali che avvengono lungo le strade, infatti ci dicono sempre quando siamo a piedi su una strada provinciale di camminare contromano, perché tu vedi, esatto, lo dice le macchine anche il codice della strada, lo dice anche questo. Quindi questo è una cosa su cui fare attenzione e riflettere. L'altra cosa, visto che stiamo celebrando questo eccezionale compleanno della bicicletta, è quello delle ciclabili. Io ti voglio chiedere, ma vanno bene secondo te, Francesco, come le stanno facendo in tante città? Perché meritoriamente molti comuni si stanno adoperando per questo, perché io a volte vedo a Milano delle striscioline che iniziano e finiscono dopo 200 metri, e poi mi domanda, ma chi le usa? Perché c'è una strada, tipo in via Monterosa, c'è una ciclabile di un metro di larghezza, l'hanno appena fatta, bravi, però la strada è larga 20 metri. Secondo te i ciclisti poi le dovrebbero utilizzare, ma le usano veramente? Perché se è una strisciolina, capisci che... Allora, di nuovo, in teoria andrebbe usata, anzi sarebbe obbligatorio usarla. La realtà è che un metro di ciclabile è praticamente inutile, specie se comincia in un punto e finisce dopo 200 metri. Esatto. Stiamo parlando di un metro di larghezza, non un metro di lunghezza, perché ovviamente un metro di lunghezza è molto inutile. Molto qualcuno però potrebbe anche pensare nei nostri comuni di fare un metro di ciclabile, tanto perché almeno ho fatto è vero, ciclabile. Un metro qua, per metterla nel programma. Per metterla nel programma, per fare poi le statistiche sui metri, perché in effetti il tratto è corto, la ciclabile è stretta, ci sono i muretti, anche solo di 15-20 centimetri che la delimitano, se uno si distrae un attimo rischia che batte nel muretto e si fa del male. Per cui io quello che mi sento di dire agli amministratori, fate le ciclabili, però fatele dove è possibile, più possibile larghe, e soprattutto mi verrebbe da dire non riducendo i marciapiedi dei pedoni, perché se no si fa la guerra tra ciclisti e pedoni, ma possibilmente riducendo lo spazio per le macchine, in modo che poi vanno più lentamente, perché se no è inutile. È una battaglia, però una se, battaglia. Volete, se mi consentite ve la complico un pochino. Io sono reduce, sono tornato da poco da quello che si chiama VeloCity, che è il congresso a livello mondiale sulle bici, ciclabilità e quant'altro, si è tenuto in Olanda. E alla fine siamo, una delle conclusioni, uno dei principali argomenti di discussione era lo spazio condiviso, ovvero lo spazio è una cosa limitata nelle nostre città e dobbiamo riuscire a condividerlo fra tutti gli utenti della città. Giusto, giusto, giusto. Forse invece che suddividerlo, auto, condividerlo. A volte i piedi, a volte il mezzo pubblico, a volte anche l'auto, è inevitabile, però va dato il giusto spazio a tutti. È una cosa che è stata lì per lì divertente, poi riflettendoci è importante. uno degli oratori ha detto: ricordiamoci che le città sono state costruite per gli umani, per i cittadini, e non per le auto, e vanno restituite ai cittadini, che è un concetto che lì per lì è forte, perché in questo momento le nostre città sono, non dico in possesso, perché non è vero ed esagerato, però sono pensate e vengono pensate per gli spostamenti in auto e non per i cittadini, per la socialità, per stare a chiacchiera, per viverle. Ma le biciclette fanno parte dei cittadini oppure fanno parte dei mezzi di trasporto? Sono un mezzo di trasporto che però incentiva la socialità, perché in bicicletta, se io mi trovo a fianco a lei, possiamo scambiarci due parole. Molto vero. Francesco, facciamo una cosa. Siamo a fianco in macchina, abbiamo il pedale sul gas per vedere resta, chi di noi è resta in collegamento con noi ancora per 30 secondi, perché abbiamo le informazioni appunto sul traffico e dobbiamo sul traffico delle bici. E poi vogliamo chiudere con una cosa curiosa che riguarda le bici. In compagnia di Francesco Baroncini, direttore generale della Federazione Amici della Bicicletta, perché una delle grandi questioni, mentre stiamo celebrando l'anniversario 200 anni dalla nascita della bicicletta, è, ahimè, il furto di biciclette, che è una roba che proprio non si può controllare. Possiamo fare qualcosa in particolare per le grottaglie? Perché hai saputo l'ex calciatore... che gli hanno rubato. Senti qua cosa ha scritto su Facebook quando gli hanno fregato la bicicletta. A te che mi hai rubato un pezzo di cuore. Chiunque tu sia, qualunque cosa volessi fare con la mia bicicletta, io ti perdono, davvero. Anzi, mi stai quasi simpatico, perché già immagino la tua nuova vita dopo la conversione all'onestà. Alcuni tra i personaggi che più ammiro hanno fatto brutte cose prima. Pensa a San Paolo, lui perseguitava i cristiani, certo, peggio di chi ruba le loro bici. Ma poi si è redento, oltre a San Paolo. L'hanno fatto Zaccheo, l'innominato dei Promessi Sposi e... Godzilla, che è il nome tra l'altro della sua bicicletta. Cioè ha sbroccato completamente, anche se poi ha offerto il perdono, se gliela riportano gli darà una maglietta firmata E gli ha anche detto che la puoi vendere su eBay comunque la mia maglietta, quindi ti fai anche un piccolo guadagno al posto della mia, però ridammi la mia bici. Cioè il furto di bici è un grossissimo problema per i ciclisti. È un problema notevole per i ciclisti. 18.000 all'anno abbiamo letto. Più o meno sì, probabilmente di più, perché purtroppo, ed è un consiglio che do molto forte, quando viene rubata una bicicletta bisogna fare comunque la denuncia, perché ne ritrovano molte di più di quello che si pensa. C'è speranza, c'è possibilità, c'è speranza. Di speranza. Il problema è che senza una denuncia non si riesce a rientrare in possesso della propria bici. Poi adesso si stanno studiando anche sistemi nuovi, come quelli col codice, il GPS, cioè sono cose un po' più costose, però insomma... Fiab stessa suggerisce, e molti comuni lo fanno, a cominciare da Verona, Padova e altri, la punzonatura, ovvero l'impressione del proprio codice fiscale sul telaio della bici, una macchina che non costa tantissimo, in quel modo lì si assicuri che quella bicicletta è la propria, perché il codice fiscale è unico. Certo. Ed è un eccellente modo per riconoscere la propria bici, perché se vogliamo parlare di furto, se mi date due secondi provo a dire aspetta un attimo, perché c'ho un ascoltatore, già che ci siamo. Francesco, chiudiamo insieme la puntata, prima però sentiamo un ascoltatore perché vediamo se ci indovina il personaggio della settimana. Francesco da Torino, benvenuto. Francesco è andato a bere il caffè. Francesco da Torino non c'è, caduta la linea. Che è successo? Va bene, allora andiamo invece con Francesco Baroncini, che volevi dire tre cose sul furto di bicicletta. Esatto, la prima l'ho appena detta, rendere facilmente riconoscibile la propria bicicletta. Codice fiscale, dipingerla di giallo. Codice fiscale è un qualcosa che identifica molto bene la bicicletta come mia. Certo. La seconda è una denuncia, allegando una foto di se stessi alla bicicletta. La terza è comprare un lucchetto buono. Troppo spesso vedo lucchetti da 5 euro, ecco, su biciclette. Investite sul lucchetto. Ma abbiamo di nuovo Francesco da Torino? Sì, l'abbiamo ritrovato. Francesco, vai. Sì, buongiorno. Buongiorno. Tocca a te. Ma io volevo rispondere sul personaggio, ma in realtà avevo proprio pensato alle grottaglie. Gli hanno portato via qualcosa, è famoso. E invece evidentemente non va bene, visto che l'avete appena citato. E invece era lui. Era lui, assolutamente. Sì, il personaggio era un aiuto, volendo anche. Piccolo cortocircuito, perché normalmente cerchiamo di non trattare l'argomento del personaggio, sennò diventa troppo facile. Ma questa volta siamo stati così di manica larga, tanto eravamo in chiusura. La storia Francesco, l'abbiamo già raccontata. Grazie, grazie da Torino, mille, hai vinto un libro. Un libro a tema, verrai contattato dal nostro centralino, Francesco Baroncini della FIAB. Abbiamo chiuso, ma Ma abbiamo detto tante cose sulla bicicletta, siamo anche il secondo esportatore al mondo, vero? Di bici nel... Esattamente, siamo un paese che produce ancora tantissime biciclette. Siamo bravi. E anche di ottima qualità. Ecco, bravo. Quindi molto bisogna bene. Comprare biciclette italiane. Grazie, sì. Francesco Baroncini, chiudiamo grazie qua. Grazie mille. Buona domenica, un ringraziamento naturalmente ad anche Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Carmelo Rocella oggi in regia, ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini. E a chi ci ascolta in podcast.